Allora, cominciamo innanzitutto, tiratemi tutti quanti un tiro subito di iniziativa, per vedere in che ordine vi presentate. Sull'iniziativa, quindi un dado da 20, vero? Clicchi sull'iniziativa, lo schermo ti tira subito l'iniziativa. Aspetta, adesso apro la scheda. Questa iniziativa. Quindi sono in ritardo già. Io la trovo. Ah, trovo. Fatto 20, la vostra scheda. Okay. Beh, insomma, siamo messi abbastanza bene. Ecco, il nostro primo tiro è andato da Dio. Ma anche lei, perché voi arrivate più o meno assieme. Sì, c'è solo il mezzelfo da solo in una taverna. Due giorni prima. Vi siete dati appuntamento alla taverna di Resident, che vedete lì nella mappa, e lì a sud, vicino alla foce. Pietro e Andrea, voi arrivate dalle miniere del clan Silverson. Si è sempre di Berbero. Sì, perché abbiamo due microfoni. Arrivate dalle miniere del clan Silverson, Andrea. Mentre Mattia e Gabriele vi siete incontrati lungo la costa a Est Gential e siete arrivati entrambi qua in paese. Gential è un paese piuttosto piccolo, ma comunque diviso in due parti. La parte è quella un po' più lontana dalla costa, è stata costruita fondamentalmente su quello che rimaneva di un campo militare dell'impero degli Elfi, e quindi ha la classica forma squadrata ed è il quartiere un po' più ricco, è l'unico quartiere dove ci sono degli edifici in pietra e dove abitano le famiglie elfiche che formano un po' il governo di questo villaggio e della zona circostante. Più verso il mare, più verso la costa, c'è la zona dove abitano la gente normale. Questo è fondamentalmente un villaggio di pescatori. E vi siete dati appuntamento per metà mattinata in una delle due taverne, in particolare la taverna che si trova nella zona dei pescatori. Per cui, Gabriele, tu sei il primo di arrivare. Aspetta un secondo che vi apro la mappa. Sei il primo ad arrivare alla taverna e quando entri, questa è una taverna normale, pareti di legno un po' anche rovinate, cioè non tengono del tutto fuori il vento che arriva dal mare. Ci sono dei tavoli di legno sparsi che alcuni sono fatti con delle botti messe lì. Un bancone di legno, il cui legno è legno portato dal mare, cioè di relitti e cose del genere. Detriti. Che gente c'è dentro? Un tavolo sulla sinistra è occupato da quattro pescatori che sono lì. E dietro il bancone c'è il proprietario di questa locanda, che è un umano, di cui mi sono scritto delle cose. E di che razza è la gente qua? Sono tutti umani qua dentro. Quindi non hanno problemi con i mezzelfi? Non che tu ti aspetti, no. Diciamo che ti guardano comunque sorto perché se non sei di questo paese. Quindi comunque non ti guardano benissimo, ecco. Comunque, se sei il primo a arrivare, descrivi fondamentalmente il tuo personaggio quando entri in taverna. Cosa vedono queste persone? Cosa indosso? Aspetta, fatemi cercare. Ho i vestiti normali, scuola spag. Dove sono messi i vestiti? Porca merda, non sapere come compaio. Cazzo, è sta roba? Dio? No, Spells. Common Cross, ok, vabbè, che cazzo ne so, io sono come quello della cioè, un mezzelfo, vestiti comuni, spero avere un mantello col cappuccio che mi copra un po' le orecchie a punta di modo che posso sembrare vagamente un umano magro, mm-hmm. Può essere, che altro posso avere? Sono un bastone, sì, perché può fungere anche come arma, la mia bella balestra sulla schiena, e il borsone con tutti gli attrezzi e la cosa per gli incantesimi appresso e lo zaino in spalla. Okay. Che altro devo dire? Cominciamo con quello, va bene. Vai, ti vai a sedere a un tavolo qualunque, la gente è il tavolo che ti sto segnando lì sulla mappa, lì ci sono quei pescatori. Ok, io dovrei sedermi in quello più lontano. Ok, perfetto. Poco dopo che tu sei seduto, il barista lì sembra non guardarti tanto, non cagarti tanto, cioè se non lo chiami te lui è difficile che ti venga a servire. E poco dopo che si è seduto arriva Mattia, anche lui, e anche se anche te vuoi descrivere il tuo personaggio, cosa vedono questi pescatori? Sì, allora, entro e vedono un mezzorco piuttosto grande, vestito con dei vestiti da viaggio, quindi abbastanza tozzi e abbastanza rovinati, un bastone in mano. E niente, ho un ciondolo con degli artigli dorso sopra e niente, mi guardo intorno e sembro il mezzelfo, sono abbastanza diffidente nei confronti di tutti, niente di troppo incazzoso, però diffidente. Ok, quindi ti vai a sedere lì con dove c'è già Gabriele, e poi arrivano, aspettate un bel po', e i vostri contatti nani sono troppo in ritardo, e arriva prima Pietro. Ah, ok. Dovremmo, che ne so, chiedere da bere al tizio, oppure... Ditemi voi, cosa volete chiedere prima che arriva Pietro, cosa volete fare? Gli chiediamo che si porti qualcosa da bere. Ok, di solito nella taverna poi scoppia la rissa, allora intanto beviamo, poi facciamo la rissa. Sì, ordiniamo da bere. Ok, cosa sì, ordinate? I posti frequenti, Gabriele. Io non vedo una rissa dal... La birra. Da anni. Ok, della birra è per te, Gabriele? Che tipo di birra hanno? Hanno una birra. Una birra? Una birra scura. E hanno del vino e degli spiriti, diciamo, super alcolici vari. E prendiamo una birra. Se Mattia magari l'assaggio, sente com'è, lui che è esperto di birre. Com'è la birra? L'esperto di birra. Poco. Un foglio dedicato alle 3,5 a 3 grammi. Quasi, quattro sono 4 grammi. Esci adesso una moneta d'oro, fai i cambi qua ad essere in banca. Allora. Una moneta d'oro sono 10 grammi. No, aspetta, sono 100 di rame. No, un oro sono 100 di rame. Sono 100 di rame, uno d'oro. Ah già, c'è l'argento in mezzo. Quindi se tolgo e diventa 4 questa, EP cos'è? No, GP. Elettro. Che non c'entra niente. Silver diventerebbero 10 e CP sarebbero 100, che lo trasferisco così. Mm-hmm. Quando tiri fuori la moneta d'oro, il barista la fissa abbastanza affamato, perché non ne vede tante. Ecco, pronti la lista e questi vogliono derubarsi, fenomenale. Non ne vede tante, comunque... Mi ricorda la locanda che siamo stati a Fabriano, quando siamo entrati i bambini fanno «Nonna, clienti!» questo non vede molti più. Ok, me la cambia e offro la birra anche a Coso, a Mattia, dato che mi difende, e quindi mi restano 92. 92, ok. Assaggiamo la birra. Per sentire com'è. Ma è buona? Perché posso cambiarla la birra io volendo, eh? Fate un tiro, uno di voi faccia un tiro di 20 così pulito per vedere come la birra. Vado io. Fa cagare. se la birra è cattiva, molto bene. Il bicchiere lurido o una combinazione delle due? Dato che fa schifo, posso utilizzare la prestidigitazione per renderla migliore? Puoi provare. Funziona così, funziona la prestidigitazione, eccola qua. Vai. È previsto che io posso clean o soil flavor up or cube food or non limitare, posso dare gusto per un'ora a quello che abbiamo qua, quindi a questa birra schifosa posso dare fino a un cos'è un piede cubo, ci saranno un piede cubo io mi aspettavo che faceva schifo sta birra, quindi faccio schifate e basta. Sono tipo 9 litri un piede cubo. Ecco, no, le hai saporite, quindi almeno sono buone le birre adesso. Possiamo berle allegramente. Ed è anche più alla falsa. Bene, bene. E qualcuno vuole vedersi il tavolo, come serve il tavolo. Ma da questi birbitazione serve qualcosa. Nel frattempo arriva Pietro. Ok. Entra lì un po' affannato perché hai corso l'ultimo pezzo che era in ritardo. Poi sono un vecchio. Poi c'è un'età perché è tornato. E c'è anche le gambe corte. Esatto, ho la cotta di maglia addosso con la sovracotta sopra, la spada lunga che sporge dalla spalla destra, cioè sulla schiena, ho lo zaino dell'esploratore in spalla, i 5 giavellotti che spuntano dalla spalla sinistra, lo scudo sopra lo zaino, e come collana ho il simbolo sacro del dio, entro e mi dirigo spedito dal tavolo. Ok, e subito dopo, anche lui di corsa, arriva l'altro nano del gruppo. Vai, Andrea. Io sono un nano, barba lunga, chainmail addosso, ho l'explorer's pack dietro la schiena e sopra l'explorer's pack, sopra questo zaino c'è il mio scudo. Lascia e rimane penzola di lato sulla sinistra, mentre due asce da lancio sulla destra rimangono lì di lato. Entro, mi guardo intorno e siccome noto che Pietro è già al tavolo, assieme a quello che potrebbe essere un mezzelfo, non so nulla ancora dell'orco, però mi dirigo verso di loro. Okay. A mettermi perfetto, vi siete incontrati tutti. Come avevo discusso, appunto, mio fratello, cioè il personaggio di mio fratello che si chiama Brasator, è un alchimista e sta cercando qua erbe e ingredienti. E il personaggio di Gabriele, che non mi ricordo come si chiama, perdonami, Gabro, che lo so, okay. In modo molto Gabro. Gabro. Che dovrebbe fare da guida nelle zone qua attorno, fondamentalmente. Tanto per capire di che erbe stiamo cercando, o perché ovviamente io non ho nemmeno idea di come siano fatte le erbe nella vita reale, quindi... Va bene. Però ce le inventiamo, insomma, ci dirà anche Matteo che cosa sono. C'è anche un cazzo di come sono fatte le erbe nel mondo reale. Però, sì, un po'. Oh, abbiamo il paradigma, sa tutto di erbe, aspetta. Se allora non cominciamo con le battute facili. Mamma mia. Era facilissimo, sapevo. Considerando che a sud c'è mare e non stiamo cercando alghe, di sicuro dovremmo andare verso nord. Ma magari anche le alghe sono buone, che ne sai. Vabbè, comunque, l'esperto qua della zona sei te, Gabriele, quindi saprai ben dirci. Sì, appunto, tu Gabriele sai che... diciamo la zona dove ha più senso andare a cercare è andare verso nord, risalendo il fiume e attraversando la zona dove si stringono le montagne, fondamentalmente. Adesso arriva il punto, in quella zona come ci arriviamo potremmo prendere una qualche barca che risale il fiume, c'è un servizio di traghetti in questo posto, dobbiamo chiedere all'oste. Possiamo andarci poi a informare. Però per il momento il mio nano sta cercando di capire, di insomma metterci d'accordo su come giustificare la presenza di un mezzelfo quando viaggeremo all'interno dell'impero elfico. Cercare di capire bene o male come fare in modo che o passi inosservato o comunque non sia non desti troppo fastidio verso gli abitanti locali. Qua comunque al momento voi siete già nel territorio dell'impero. Sì, però qua sono per lo più umani, quindi dobbiamo in qualche modo organizzarci per evitare che... Diciamo che un modo per aggirare l'inconveniente sarebbe passare di livello in modo che vi attivo l'abilità di cambiare aspetto. Esatto. E tra l'altro questo è il character, lo dice. In character, lo dice. Cioè, sì. Beh, allora dovremmo fare delle risse più presto. Mentre succede questa cosa, i quattro pescatori al tavolo non vi stanno guardando molto bene e si stanno lamentando del fatto che, oltre ai problemi col drago, adesso c'è di tutto proprio nella città, c'è cioè proprio non solo nani, non solo mezz'orchi, ma addirittura mezz'elfi che stanno cominciando a guardare verso di voi, e fondamentalmente gettandovi insulti mentre parlano tra di loro. Aspetta, frena. Un drago? Chi lo stai chiedendo? No, io ho sentito la parola drago. Hai sentito parlare di draghi? Non ho mai sentito parlare di draghi, vengo dal sud. Io invece ho sentito parlare di draghi, ho già sentito parlare di draghi. Abbiamo casini con un drago da qualche parte. Allora, vediamo un po', possiamo fare qualcosa per tipo il taunt, cioè provocarli in modo che siano loro ad attaccare per primi? Assolutamente, sono già abbastanza provocati, ma perché dovrebbero essere loro ad attaccare per primi? Così noi abbiamo la legittima difesa e possiamo dimenticarci con le guardie quando arriveranno. Ma noi non provochiamoli, chi se ne frega, non abbiamo bisogno di provocarli. Se loro verranno qua al tavolo, riceveranno... assaporeranno la minaccia. Facciamoli venire quindi, così è un po' di punti esperienza e almeno qualcosa succederà. O no? Nel frattempo hanno sentito... Brasator che diceva appunto che vengano solo, sentiranno il sapore della mia ascia, si alzano e prendono dei coltelli e cominciano ad avvicinarsi verso di voi guardandovi in cagnesco e dicendo: ma come vi permettete voi di venire qui in città e provocarci? Come minimo sarete delle spie di quel drago. Metto mano al Maul. Noi non conoscevamo nessun drago. Non sapevamo nemmeno che ci fosse il problema del drago. Io sono qui come turista. Non intendo creare problemi. Né avere problemi. Potevamo ingannare a dire loro che siamo stati mandati da qualcuno per occuparsi della questione dei draghi. No, io lo diciamo questo, non voglio incasinarmi con un drago a livello 1, se permetti. Tu forse dici così, ma quello è un mezzelfo, sicuramente è venuto qua a fare casino. Il mezzelfo è sotto la nostra protezione. È sotto la vostra protezione. Posso fargli la linguaccia? Dalle guardie. Vuoi fargli la linguaccia? Non penso che mi convenga provarci a portarlo verso le guardie. Puoi sicuramente fargli la linguaccia. Io facciamo la linguaccia, questi qua ci sarà che ti discuto. Però... uno cerca di scavalcare Brasator per venire addosso. Io lo spingo via prima che possa cercare di raggiungerlo. Vuoi che faccia tipo un tiro di forza? No, voglio che tirate l'iniziativa. È ora di iniziativare. Cosa ho fatto? Non è che brutti che sono sti umani. Arriva. Mamma mia, secondo me c'hanno dei problemi questi, lasciatelo dire. Allora, ti mostro. Che brutte persone, ma questi qua sono gli stessi che poi usi tipo per gli zombie, perché la faccia è quella. Vabbè, hanno fatto delle iniziative bellissime, ve lo posso già dire. Ma sì, noi abbiamo Mattia che ha fatto un 20 naturale di mezz'orchesco. Io fa. Allora abbiamo. Mica che cazzo di iniziative che ha tirato. Mi ha tirato bene sto giro. Perché se l'aspettava. Io, Mattia, Ma ti era caldo dalla birra buona? Ah sì, la birra minebria. E poi io posso, aspetta, devo soltanto vedere una cosa qua su Roll20. Token layer, ok. Se io scrivo questo, voi lo vedete? Provo a cliccare su quello in basso a sinistra, in basso a destra quello. Vedi niente? Ottimo, ottimo. No. Posso segnarmi i punti ferita? Puoi segnarti i punti ferita. Me li segno i miei, tu li vedi i miei. Aspetta, rosso che cos'è? Quello che vuoi. Non sai cosa? Dovresti probabilmente assegnare il coso a me. Te l'ho segnato il tuo personaggio, te? Sì. Allora, dunque, rosso. Ok, bravato. Rosso sarà la classe armatura? Mettici la, il punti ferita, perché la classe armatura. Vabbè, magari ti serve la classe armatura, scusa. I ferita di questa gente sono ridicoli. Ma com'è che funziona qua mettere i punti vita? Non ho capito io. Io li sto mettendo dentro i pallini rossi di questi cosi. Ah, ok. Mettete rosso. Vabbè, fate che li so. Perfetto. Perché no? Oh, si scrivo e poi enter tu sei. Ok, perfetto. Potete, se volete, scavalcare tavoli, costa il doppio del movimento attraversarli. Cioè, terreno difficile fondamentalmente. E per il resto tocca a voi. Vai, Mattia. Mentre inizia il combattimento, il barista, che è ancora sul bancone, comincia a guardare tutti voi, non soltanto i quattro, ma anche loro, terrorizzato. E ha già a dire semplicemente no, non uccidete nessuno, no. Poi io non prendo i miei punti di vita. Io consiglierei di fare il danno letale. Sono al centro della scheda, subito sotto l'iniziativa. Che aspetto hanno sti qua? Sono mingherlini o sono grossi? Ah, ok. No, gente. Hanno bevuto. Mi sono perso. Ho sentito gente, poi silenzio. Gente normale. Anch'io. Che hanno anche bevuto. Ah, botte in testa. E qui esiste il danno non letale in questo. Mi sa che vado con i pugni. Ma puoi anche farlo con le armi, il danno non letale. Basta che me lo dici quando li mandi a zero. Ah, ok, lo usi tra le due cose e poi quando okay, lo mangi dici che non lo uccidi. Va bene. Allora, sono primo col 20. Sei primo, sì. Allora tiro fuori il maul a due mani e sono lì, mi preparo. Devi avvicinarti, credo, o tiri attraverso il nano. No, devi avvicinarsi. Ah, ok, allora mi affianco ad Andrea. Ci siamo, no? Sali su un tavolo? Ah. Cioè, tu la mappa qua o occupi un quadretto? Ok, no, allora... Dai, però puoi fare il giro. Tu hai il conto che hai sei quadretti di movimento. Sei quadretti. Ah, no, ok, allora no, faccio il giro e mi avvicino al tizio. Ok. Col maul in mano. E attacchi questo qua? Ah, posso già? Attacco allora. Questo qua puoi attaccare, sì. Puoi anche attacco allora. Vai. No, attacco quello davanti a me. Ok. Vado. Però sì, lo colpisci. E gli fai... Sì. Non se l'aspettava. Diciamo che quando hanno provocato speravano di non essere colpiti più di tanto, e questo qua lo vedi che non si aspettava di venire colpito da un'ammazzata del genere. Io mi alzo dalla sedia, estraggo l'ascia con la mano destra, lo scudo con la sinistra lo sfilo da dietro la schiena e cerco di colpire con l'ascia verso diciamo la parte alta del busto dell'umano che ho di fronte. Quindi questo qua. Posso fare quel segnetto che hai fatto te prima, no? E hai premuto col mouse. Ok, questo qua. Ok, vai. Quindi io ho Batlax. E gli faccio 10, direi, perché l'altro è il critico, ma è solo se avessi vantaggio. Ok, quindi se gli fai 10 a questo qua. Messo malissimo questo, cioè la tua ascia vedi proprio che gli taglia le vestiti e gli fa un bel taglio sotto il petto. Urlo anche se siete ancora in tempo a lasciar perdere. Avete fatto una cazzata? Chiedo. Io tiro fuori il pugnale dalla cincina e glielo pianto in una gamba, questo qua. Ok. Vado, vado. Lo colpisci, gli pianti il pugnale della gamba e lui va Sì, giù per non terra tenendosi la gamba. lo voglio morto È fuori dal combattimento. comunque. Ok, bene. Credo tocchi a me. Sì. Oh, a distanza quale posso colpire? Questo? Puoi colpire chi vuoi a distanza. Sì, tanto io non ti sono piccolo di taglia, quindi non ti do nessun impedimento alla visuale. Sì, però sono basso. Allora vado con l'Eldritch Blast contro quello là. Ciao, speriamo. Quello di mezzo? E questo qua. Sì, ti basta per colpirlo. Quindi faccio addirittura due. Oh, mamma mia. Ti parte questo raggio di energia dalla mano. Vuoi dirti un po' com'è il tuo raggio di energia? Spero sia violaceo perché il viola è un bel colore di energia cattiva, anche perché è un attacco di forza. Poverino di 120 piedi, quindi penso un bel raggio di energia che lo colpisce dritto in testa, senza Lo colpisce contatto. in testa e lo vedi che è un attimo scosso, cioè sente il colpo non così non tanto viscerale. Infatti, ho fatto due danni. Il marinaio che è stato colpito da Mattia prova a rigirargli contro. Hanno tutti quanti dei coltelli in mano. E tutto ti Non c'è immagini modo sicuramente. di ragionarci. Beh, Puoi Mattia è un provare. po' di classe armatura. Mattia è sufficiente di classe armatura visto che questi hanno tirato un 3. Sì, beh, sicuramente più di 3. Sicuramente più di 3 di classe armatura. E puoi provare a ragionarci, sì, nel tuo turno invece di sparargli così. Ah, invece di sparare potevo ragionare, non è possibile dire arrenditi, bisogna evitare di attaccare, ok. Sì, nel senso, il tempo che usassi per attaccare lo usi per. Questo si muove, salta sul tavolo e prova ad attaccare Mattia. Mattia. No, Mattia, Gabriele. Cercando un dado. Questo riesce a colpirti, credo. Io ho 14. Sì, allora sì. Ok, e ti fa un po' di No, non ce l'ho quell'abilità lì. subisci un danno tagliente, ti si avvicina col coltello, riesci a scansarti e ti sfiora Da a sopra il tavolo lo sta picchiando. terra. Sì, è saltato sul tavolo. L'ultimo prova ad andare ad aiutare il suo amico, che se la sta prendendo con l'unica persona grossa di voi. E quindi attaccherà anche lui il nostro mezzorco. Ed è anche lui ridicolo, però. Tu vedi questa gente, questi due marinai con i coltelli che provano ad attaccarti in maniera completamente inefficace. E li pari entrambi assieme col tuo martello ridendo. Doppio Barry. Ed è il tuo turno. Io gli grido in faccia e colpisco quello davanti a me senza finirlo ovviamente, alla gamba cercando di farlo cadere, cioè di farlo rimanere per terra. Adesso piano. Scusate, ho tirato due volte il primo. Con, tirando uno su entrambi i gradi da terra, però un doppio uno. Doppio uno, che è bellissimo. Non male. Provi a colpirlo alla gamba, ma lui riesce semplicemente ad alzare la gamba e a schivare il tuo attacco. Brasator. Ok, ok. Io noto il movimento dell'umano che è saltato sul tavolo. Non faccio in tempo di intercettarlo, ma girandomi di slancio cerco di colpirlo all'altezza delle ginocchia con la mia ascia. E quindi tiro questa cosa. 9. 9. No, 9 non è sufficiente. Provi a prenderlo al volo, ma pianti la tua ascia sul tavolo poco più là del tuo pallone. Pietro. Io tiro fuori lo spadone e glielo pianto nelle caviglie di altri stessi al tavolo. Ok. Vado di domani o uno? Dipende come l'hai preso. A due mani. Lo colpisci e gli dai una bella spadata dietro le gambe. Lui all'ultimo momento riesce un po' a scansarsi in maniera che proprio non gli tagli i tendini, ma gli hai fatto una bella ferita su entrambi i colpacci. Gabriele. Tocca a me, cerco di dargli una bastonata in testa, sto qua sul tavolo, vediamo cosa ne viene fuori. Bastone da passeggio, vai. Sì, la tua botta in testa è sufficiente per... Lo vedi che gli si crociano gli occhi, e va giù lungo sul tavolo e cade di fianco. Oh, meno male, un altro in meno. Tocca a questi due, che si ostinano su Mattia. O almeno provano, visto quello che sto tirando. No, infatti. Quanto hai per la natura? 13. Ah no, uno ti colpisce. Attenzione, con un 13 quello lì ti colpisce. Riesci a schivare il primo, bloccandolo di nuovo col martello, e l'altro a quel punto riesce a ferirti il braccio con cui regge il martello, facendoti due danni taglienti. Ed è stato okay. Questo qua a colpirti. Nel caso tu voglia retagliare. Retaglienti in italiano? Non posso attaccare. Gesù. Le fosse ardeatine, cos'è stata? Una presaglia. Rappresaglia. Vendicarti. Rappresagliare è brutto. Tipo vendicarti. Vabbè, abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Va bene. Sì. Perfetto, Mattia. Allora. No, incazzato come una bestia, colpisco quello che mi ha colpito, quello che mi ha tagliato. Quindi questo qua. Ti giri bene alla spalla, possibilmente col martello sulla spalla, senti proprio solo il crack di ossa e articolazioni. E questo va giù disteso. Proprio gli si crociano gli occhi e lui in secco a terra. Poi mi tocca guarire di questi. Gli grido addosso. Bravo. Beh, io mi giro verso l'ultimo rimasto e non so neanche a ragionare. Cerco di colpirlo con l'ascia tra capo e collo. Insomma, per decapitarlo? Sì. In maniera non letale, però. In maniera non letale. Avete capito? Se uno è non letale, mi piace. Esatto. Gli pianti proprio lascia qua. Di piatto sul collo. Gli rompi la clavicola e gli pianti lascia lì. Qua giù lungo, sanguinando copiosamente. Con un calcio estraggo la mia... Cioè, tenendolo fermo col piede, estraggo la mia ascia. E mi sa che sanguina un po'. Sanguina parecchio. Non c'ho il tasto per levare questo. Ok. In tutto questo il barista continua a dire no. E si spalanca la porta. Le guardie dei cittadini. No, peggio. Il drago. Un drago apre la porta. Entra una figura mascherata che non sta camminando, cioè è sospesa per aria a due spanne da terra e avanza, va dal barista e gli dice come d'accordi. Gli lascio due monete d'oro sul balcone e i due marinai, quello a cui mio fratello ha piantato un'ascia addosso e quello che hai colpito con... che è steso con una bastonata in mezzo agli occhi, si rialzano e vedete che non dovrebbero alzarsi. Cioè, soprattutto quello che ha avuto un'ascia dentro il collo non dovrebbe essere vivi. Però a un gesto di questa figura si rialzano, delle mani compaiono dal terreno e li trascinano di sotto e scompaiono. Questo mascherato poi ritorna verso la porta. E c'è il barista completamente, cioè, congelato, che lo fissa con due monete d'oro davanti a sé sul bancone. Noi cerchiamo di fermarlo. Ehi, ma che cazzo? Cerco di andare verso questo losco figuro per capire che cosa sia successo. Sta andando verso la porta. Noi iniziamoci in robe che sono troppo grandi per noi. Uno che galleggia nell'aria e che fa ritornare in vita i morti, credo abbia qualche problema. Dovrebbe andare a fare il paladino di difesa contro il drago. No. Io volevo dirgli che noi stavamo cercando il drago, ma era una balla. Tranquillo. Mattia, prendiamo un tavolo. Questa persona se ne va e il barista è ancora lì. Chi era quello barista? Oste. Chi era quel per un attimo quel coso? Sembra che vi ignori. Prendo una bottiglia da dietro di un qualche superalcolico senza etichetta, se ne verso in un bicchiere, sentito un odore orribile, è proprio roba fatta in casa male, e se ne bevo un bicchiere per placarsi un attimo i nervi. E poi vi spiega che non sa chi sia quello, ma è qualche mese che ogni volta che succede qualcosa, che c'è una rissa, un incidente, ogni volta che muore qualcuno, arriva questa persona. E lui inizialmente gli andava bene, perché, cioè, la prima volta che è successo, gli ha dato dei soldi, fondamentalmente, quindi... Però ha paura, perché non riesce a capire che cosa stia succedendo, cioè perché arrivi sì, ma questa persona. Non è normale che quelle persone siano state trascinate sottoterra. No, sono d'accordo, vi dice. È per questo che ho paura. Non capisco. Le autorità non sanno nulla. Le autorità non sanno nulla di questa cosa. Che io sappia, no. Inizialmente non era così. Inizialmente semplicemente prendevano i corpi su un carro e lo portavano fuori dalla città. E poi non ne sapevano più niente. Ora però non è più così. Si sa dove arriva? Io non lo so, dice il barista. Cioè, ma lei mi sta dicendo che succedono queste cose e non avete mai avvertito nessuno di questo tipo di eventi? Avvertito chi? Ci sarà un'autorità in questo villaggio che possa in qualche modo... Sì, abbiamo provato a intervenire o chiamare qualcuno che possa intervenire. Siamo in un impero elfico. Ma ci hanno risposto che quei problemi che stanno avendo lungo la costa, il fatto che ci sia questa persona che si porta via i morti senza causare di fatto problemi, per loro non era importante. Ma quello potenzialmente si sta costruendo un esercito, se ne rende conto? Non lo so. Per fortuna sono non morti, Poi sentite il mezzetto che commenta, beh, per fortuna sono non morti. Sì, se non altro non vengono a cercare te, gli dico. Nessuno ha mai visto i tizi che spariscono? No, non che sappia. Quindi questi spariscono e nessuno sa più niente. Le famiglie cercano. Le famiglie chiedono nulla? No, sì, hanno provato a cercarli, però non si è mai riuscito a trovarne traccia. Anche quando venivano portati col carro fuori città, le tracce del carro semplicemente a un certo punto svanivano. Bene. E nessuno ha provato a scavare sotto? Sì, hanno provato a scavare dove finivano, ma era in mezzo alla strada. Cioè, semplicemente a un certo punto le tracce finivano in mezzo alla strada. Devo fare un tiro di conoscenza arcana per interpretare se ci sono dei mini portali che li spostano o cosa? Sospetti che ci possano essere, cioè, è quello che succederebbe se il carro a un certo punto entrasse in portale. Esatto. O venisse teletrasportato comunque in qualche modo. Ho messo su un altro piano di esistenza. Qui qualcuno sta giocando con i piani, i multipiani, con il multiverso, e come diceva Doc Emmett, oh grande Giove. Vabbè, che altri di un altro piano. È possibile che sia anche il covo di un qualche necromante che vuole costruirsi un esercito di non morti. Può darsi che non c'entrino gli altri piani, ma che sia tutto su questo. Perché solo due ne presi? Quindi mi si peggio. Gli altri due evidentemente non erano morti. E infatti vedete, quello che gli ha dato e piantato un coltello nella gamba è ancora lì a terra che si lamenta, fondamentalmente. E l'altro che era stato tramortito da Mattia rantola a terra con una spalla frantumata, ma è ancora vivo. Cioè, allora, questi ci hanno attaccato sapendo che in questa città i morti solitamente vengono portati via da qualcuno. Beh, non succede neanche, vi dice il barista, non succede neanche in tutta la città. Ciò che succede qui, però, ad esempio, nella zona nord, che io sappia almeno... Quindi la zona portuale è quella più in cui sono successi più spesso questi eventi? Che io sappia sono successi qui. Qualcun altro? Cioè, qui nel senso solo una taverna? Qui no, qui intorno nella zona del porto, che io sappia nella zona a nord paese. No. Chi ha intascato le altre manze? Non saprei, perché diciamo che a me ha offerto questo accordo, diciamo, una delle prime volte che veniva. Mi ha detto semplicemente, guarda, se succede qualcosa nella taverna, se ci sono delle vittime, io te ne libero e ti pago. A me non c'è andato benissimo, ovviamente. E poi, dopo un po', invece della solita persona che arrivava, è iniziato a succedere questo. Non è molto onesto questo comportamento. Quindi ci stai dicendo che se noi ti uccidessimo, tornerebbe e ti porterebbe chissà dove? Non lo so, non ho mai provato a morire. Ecco, stavo per proporre anch'io, ma tu sei un paladino, non fai questi. Non ho capito cosa ha detto. Quello che volevo dire io, uccidiamo un altro dei due. Volete uccidere un altro dei due? No, abbiamo altro lavoro da fare, non abbiamo tempo e interesse per il momento per... Neutrale buono, neutrale buono. Caotico neutrale. Ecco, io vorrei cercare di convincere il signor barista che siccome il grosso lavoro abbiamo fatto noi, almeno metà potrebbe darsela della ricompensa, no? Sì, no, prendete anche tutte e due le monete, io non ne voglio più sapere di questa situazione. Ottimo, ottimo, grazie. Chi vuole intascarle? Vai tu. Intasco io. Sono due monete d'oro, meglio di niente. Ok, bene. Due monete d'oro. Ma i cadaveri che ha tirato giù, ha tolto pure i vestiti e tutto quanto? Proprio tutti o soltanto i corpi? Della persona. Ok, ok. Io direi anche di chiedere a sti due scriteriati, perché così era venuto in mente di attaccarci, sapendo che ti poteva scappare il morto e che il morto sarebbe stato portato via. Ti dicono che non pensavano che ci sarebbe scappato il morto in una rissa da bar, non si aspettavano che riuscite a tagliarli. Ah, ragazzi, voi ci avete visti armati di tutto punto, ma che cazzo fate? Non siete i primi che vediamo armati e non siete i primi con cui facciamo una rissa. Sì, allora, facciamo vabbè, in modo che siamo gli ultimi e li uccidiamo. No, non uccidiamo degli umani, non mi interessa uccidere degli umani. Sì, ma questi non uccidono. Hanno fatto una rissa da bar, cioè l'idea sarebbe stata non uccidere neanche gli altri, però è capitato, un incidente. Adesso, ma adesso sappiamo che c'è lo spettacolo quando muore qualcuno. Ho capito, ma non siamo qui per questo. Dobbiamo compiere una missione. Nel caso in cui questi non morti ci si mettano alla strada, penseremo ai non morti. Uno dei pirati, quello con la ferita alla gamba, è riuscito più o meno a levarsi il coltello e a fasciarsi. E dice: se volete proprio combattere, parlate con. Penso che mi trovo il nome. Questo. Fondamentalmente Edric, parlate con Edric e lui ne sa sicuramente. C'è anche la situazione con Drago, se vi interessa, so che il sindaco ha messo una taglia. No, non è taglia, ma parlare con chi? Cioè, con il barista. Però gli hanno indicato il barista. Allora ritorniamo sul barista, che poteva di questo nome del Drago, barista oste. Ma qua mi è arrivato più che altro, diciamo, pettegolezzi. Noi non l'abbiamo visto qua in città, però parecchi marinai sono tornati dicendo che ad ovest di qui, lungo la costa, delle navi erano state attaccate da un drago rosso. I racconti variano, sapete come sono i marinai. Secondo alcuni è enorme, antico, secondo altri è poco più di una lucertola che vola. Fatto sta che effettivamente alcune navi, alcuni pescherecci non sono tornati e sono troppi per essere semplicemente tirati. Qua normalmente non attaccano i pescherecci della zona perché sanno che non ci guadagnerebbero niente. Cioè, tendenzialmente, se sono, qualcuno dice che è un drago antico e qualcuno dice che è appena più di un cucciolo, è possibile che sia più di un drago. Perché sapete come sono le differenze. Cioè, chiunque riesce a scappare poi racconta la storia un po' come vuole per far soffrire da bere. Comunque, se volete saperne di più, potete parlare col sindaco. So che ha messo una taglia. Di che razza è il sindaco? È un elfo. Oh, che palle. E ho messo una taglia. E invece, per quanto mi salite da altri punti in cui è comparso il tizio dei morti, no? No, io non viaggio da gente al. I miei clienti sono tutti marinai e pescatori della zona normalmente, quindi non ho molte notizie di altre zone. Io vado da quella a cui ho spaccato la spalla. Mm-hmm. E gli dico, lo prendo per la maglia da dietro, per la colottola. Mm-hmm. E gli dico, l'hai mai visto prima quel tizio lì che è entrato? No, io non ne so niente, non l'avevo mai visto. Ha abbastanza paura di te, cioè questo qua già c'ha male e fa male in piedi. quel tizio che uno di... I due tizi che si è portato via li conoscevi, erano tuoi amici e li conosciuti qua dentro da poco. Ci conoscevamo, abbiamo lavorato assieme su parecchi carichi e su parecchie navi. E stamattina qua, tutte e due sembravano. Pensi che stessi frequentando giri strani o... No, qua non c'è, in questo paese non c'è neanche occasione di frequentare giri strani. Vabbè. Ci credi a questo, perché quando sei arrivato in paese hai visto che non dico che manca quanto la panne, ma poco ci manca, cioè, proprio soprattutto la zona povera. Lo lascio lì, lo butto lì. Okay. Mi sa che mi manca una lingua con la mia scheda. Allora, signori, che cosa vogliamo fare? Edric? Insomma, vabbè, dice, se volete anche aiutare altro, avete, volete un'altra scusa per menare le mani? Io ho un problema in cantina con delle pezze. E delle pezze. Di qua? E andiamo a sistemare la cantina. Qui mi dà una chiave arrugginita, okay. Perché c'è da sotto. Che pezzi ci sono? Ratti, una qualità di ratti che non ho considerato. È prevista ricompensa? Sì. Se mi fate questo favore, vi do altre monete che mi aveva dato quell'essere che si porta via i morti. Ho altre 20 monete e ve le do. Facciamo che ce ne dai da 10 adesso come conto? Dovete solo scendere parziale, sono tutte qua le monete. Bisogna vedere un sacchetto con i soldi dentro, sono tutte qua le monete, dove sono scende versiale. Andiamo giù con queste scale allora. Ok, buon uomo, cercheremo di risolverti il problema. Quando arrivate alla porta della cantina, provate a usare la chiave e la chiave si rompe. Bene. Si è rotta la chiave. Sì. Io non ho un'altra adesso. Nascondiamo? Io cerco di sfondare la porta con un calcio. Nel frattempo avevo rinfoderato la mia. Posso dire che se ne ho un più mezz'orco di sfondarla? Mi sembra un po' più. Vabbè, pensaci che è un po' facci a spostare. Ok, un tiro di atletica. Cattivissimo. Ok. Immagino che la o lo vuoi fare con l'arma. No, ci vado di spalla. Vai, atletica. Sbatti contro la porta, la senti che si è mossa, però probabilmente gli c'era ancora un colpo. Rivado, se posso rivado. Sì. Non fare uno. Ok, perfetto. La sfondi, ma tipo la porta rimarrebbe chiusa, ma ti porti via l'ossipite proprio. E disposto qua. Vedete l'altra mappa? Sì. Sì. Non ci sono i dettagli. Aspetta. A spostare. Mentre scendiamo mi avvicino tipo al mezzelfo in particolare per dirgli noi qui dobbiamo cercare di evitare i problemi, secondo me non andiamo a cercarci problemi con draghi o non morti, sarà già abbastanza complicato attraversare l'impero elfico per raggiungere la nostra destinazione. Beh, non dovete attraversare chissà che impero. Beh, però, insomma, dobbiamo già cercare magari una nave per viaggiare più comodi. Ah, se vuoi viaggiare più comodo, sì. Devi farti vedere, farti conoscere. O dei cavalli. O dei cavalli, insomma, quello che è. Ah, io so, ho la vita di guidare carro. Dei morti, perché come diceva di Totenreiter Schnell. Questa non la conosco, mi dispiace. I morti viaggiano veloci. Scusa, i morti servono sempre. I ratti. Sono dei ratti. Sono delle sciami di ratti. Sciami di ratti. Sciami di ratti. Sì, the swarm. Vorremmo servire più particolari in quanto swarm. Praticamente giocherò a caccia alla talpa con un martello. Fondamentalmente sì. Con dei mucchi di ratti che si muovono fondamentalmente assieme. Tengo l'iniziativa di prima. Dobbiamo tirare l'iniziativa? Tengo quella di prima. Erano alte prima. Ok, perfetto. Manteniamo l'iniziativa di prima. Ci sa anche perché comunque Mattia è quello che ha tirato giù la porta ed è il primo ad agire. Ok. Intorno a voi vedete tutte quelle cose lì, queste cose qui. Ci sono barili. Sono barili cotti di roba della taverna. E questo qua in fondo? È cosa grande? Questa qua è una botola che va giù. Ok. Ah, ok. C'è la luce comunque, si vede. Poi vedete tutto il buio, quindi sì, c'è la sufficienza. Comunque un po' ne filtra tra le assi della parte alta del muro. Ok. Mi avvicino al primo gruppo e attacco. Vai. Vabbè. Provi a colpire, provi, però corrono tutte le parti. Corrono tutte le parti e non riesci proprio a beccarle. Mi prego. Parasator. Ok, allora io affiancando le botti vado ad attaccare quest'altro gruppo di topi. Okay. con la mia ascia, colpendo con una mano come sempre. Ok. E faccio quel danno lì. Sì, colpisci. Fondamentalmente fai passare l'ascia in mezzo e vedi dei rati, sfilati. Io, se possibile, io sto cercando di tirare questi pezzi di ratto direzionandoli verso l'altro gruppo di ratti. Ok. Quello dove c'è Mattia. Ok. Per distrarli, magari. Alcuni dei pezzi cadono anche sui piedi di Mattia. Sono lui, immagino che grazie. Invece. Io posso spostarmi attraverso Mattia. Tipo così. Allora faccio 1, 2, 3, 4, qua. Puoi andare lì, sì. E li colpisco con spada di mano. Quella. È critico. Urlando, guarda così. La critanza. Così si fa. Fai vedere a Mattia anche te come con una spada puoi fare a pezzi ratti e mandarli da tutte le parti. Ok, credo tu che una balestra contro i ratti non vale la pena, vero? Perché ne fisso uno, ma non più di... Sì. Li provo con un'altra dristata a questi qua. Ok. Vediamo cosa mi fare. Ok, sì, colpisci chiaramente. Il tuo raggio parte dalla tua mano, lo fai andare fondamentalmente tirando una riga in mezzo al gruppo di ratti e alcuni rimangono schiacciati e bruciacchiati dall'energia. Ottimo, però non basta segnarli tutti, adesso tocca a lui. No, non basta segnarli tutti. E adesso tocca a questi qua, che non riesco a cliccare perché ho la selezione sbagliata. A questi qua che si rigirano contro Pietro. Perfetto, lasciamo stare quelli che fanno quelli. Ti provano a mordicchiare, però mordono soltanto l'armatura e quindi non te ne accorgi nemmeno. Questi se la prendono. Ok. Andrea. Quanto è di cazzatura? 18 mi pare. Senza problema, alcuni saltano 18. Anche sopra gli altri. Ma li riesci a buttare a terra col tuo scudo. Questo sciame va qui e prova ad attaccare Mattia. Questi ce la fanno e subisci poco danno. Per essere ucciso, 3 danni da mordicchiamenti vari di questi ratti che ti si arrampicano sulle gambe. Ok. E tocca a te, Mattia. Ritento, sono più fortunato, quelli davanti a me sempre. Mm-hmm. E vabbè. ancora mentre tu provi a colpirli con questa mazza e il Piero ti guarda e vede che stai cercando di schiacciarli uno a uno e ti dice no guarda non devi far così, fai con l'ignoranza. La saggezza di Pietro tra l'altro. Guardate. Beh, io faccio il colpo di ritorno dall'altra parte con l'ascia, cercando di nuovo di maciullarne il più possibile. Butlax. Riesci a colpire e lanciare in giro per la stanza. Qualcuno è ancora lì davanti a te, ma li vedi che sono molto meno di prima. Ok. Pietro. Che me? E io ripasso. Spazi la tua spada e ne ammazzi ancora qualcuno e quelli che rimangono li vedi che scappano via e si vanno ad unire allo sciame che c'era lì accanto. Quindi sono riuniti? Sì, sono scappati, ce n'erano ancora due o tre ratti che correvano e sono andati in quest'altro gruppo. Bene, quello là tira un'altra scarica, vediamo cosa succede. Ok, più o meno come prima, questa volta invece di farlo scorrere il raggio lo riesci a mirare con un po' più precisione in mezzo al gruppo e alcuni ratti vengono proprio sparati via dalla forza del tuo colpo e vanno a sbattere contro i barili lungo le pareti. Non sono ancora là. Sì, ce ne sono ancora. Vedete che entrambi questi gruppi sono molto più piccoli dei gruppi che c'erano in principio. Ora, questo gruppo prova ad andare contro il paladino che li sta massacrando. E quant'è la statura? Pietro? Penso abbia come me, più o meno. C'ha il chainmail anche lui. Mordono la tua armatura, alcuni ti saltano attorno, ma non riescono a trovare la carne. L'altro gruppo attacca Andrea e stessa cosa, cioè non riescono a mordere attraverso le vostre armature. Mattia, io faccio vedere con naturalezza, non devi colpire alla cieca, con naturalezza, uno di qua e uno di là, uno di qua e uno di là. Lasciatemi fare. Non so se ho tirato, riprovo. Dai, io non lo vedo. Adesso sono arrivato un sacco di dadi. Ok. Stavolta li colpisci e sei anche contento di come li colpisci perché un sacco di questi ratti vengono fondamentalmente sparacchiati addosso a Pietro. Così? Sì. Io torno dall'altra parte con l'ascia come se stessi facendo un balletto alla fine. Un elegante balletto nanico con un'ascia in mano. E braccio molle. Un doppio 20 se proprio vuoi. Se mi consenti. È sufficiente per far passare la tua ascia proprio rasente a terra e tagliare quasi tutti i ratti che avevi davanti. I pochi sopravvissuti scappano tra le botte. Ok. Vieni. Io ricopisco. Ok. Ti vendici del fatto che Mattia ti abbia tirato le ratte addosso, coprendolo di pezzi di ratto. Che fai con la tua spada e anche lì gli ultimi ratti, due ratti che sono a scappare tra le botti, uno va verso le scale e sale e esce e non riesco a cacciare. Ok, dunque non vedete più ratti qua, appunto uno è salito sopra, gli altri sono infilati tra le botti, non li vedete. Vedete che comunque anche qua le pareti sono di legno e hanno dei buchi, quindi probabilmente i ratti sono riusciti a infilarsi. E c'è ancora quella botola lì, dove non siete andati o potete tornare giù. Posso dare un'occhiata in giro così, giusto per vedere se c'è qualcosa tipo che ci sta nascondendo? Se... Certo. Fatti un giro di investigazione. Cos'hanno dentro quei barili? Se c'è la birra di prima, vi è piaciuta? No. Manco per il ca. Abbiamo un 12 di investigazione. Apri qualche barile. Carne secca, pesce sul portale, okay. Quell'ottima birra. C'è un barile di pane che dici, ma che cazzo ti fa del pane in un barile? In un barile. Esatto. Prendo un pezzo di carne secca e me lo mangio. Carne secca. Così a sbasso, e vaffanculo. Torno a prendermi la birra di prima. Non so dove da prendermi la birra di me. Possiamo trafugare un po' di provviste per metterci negli zaini? A me non interessa più tanto rubare. Cosa però... che non deperisce forse la carne, carne secca. Esatto, potete mettervi del pesce sotto sale così nello zaino, ma poi ti inlorda tutto. La roba che riuscite a tenere negli zaini come razioni, diciamo, è la carne secca. Quanta ce n'è? Cioè, sono i barili pieni. Quindi quanto ne possiamo prendere per fare? Aspetta, fammi vedere l'inventario, perché cioè io ho comunque 10 razioni di cibo. Io non ho nessuna, quindi... Se sono nella merda. Ma sì, se c'hai l'Explorer's Pack o robe del genere, le hai, eh? No, io lo Scholar's Pack, non vedo il cibo dentro. Ah, te lo Scholar's Pack? Per questo io ho bisogno di prendere... Cosa prendiamo? Cosa ti serve? Sono per mangiare, quanto una razione, quanto massa per un giorno? Una razione è un giorno, è un pasto. Una razione è un pasto. Quanto pesano? Beh, no, non ce l'ho io ho scritto il peso dell'Explorer's Pack. Comunque le razioni fai, che ne so, sarà 0,2, 0,5, però... Pesano niente. E quindi devo mettere il peso completo o di ciascuna? Questa è un'ottima domanda, non ho la minima idea. Vedremo, se metto 0,5, cosa mi fa? Cosa mi ha aperto? Adesso metti 0,5 la quantità lo moltiplica, lì devi mettere il peso del singolo oggetto, secondo me. No, non moltiplica un pifero. No? Okay. Allora se scrivo 1. No, se c'è vero, lo moltiplica. Quindi 0,5 e mi prendo, dunque, quanto posso portare io? Non si sa. Tu quanto ha lui? 16 per 15. No, lì sarà già incumbrato da 40 pounds. Dovrebbero essere sarà già incumbrato da la metà. Vabbè, ma lascia stare l'incombra. Ma io adesso ho di peso 34,36. Comunque queste razioni ti bastano per più di 2 settimane. Anche perché cioè, andremo in giro e troveremo da mangiare anche in giro, nel senso. Okay. Sì, quando in giro. Ventilazioni di cibo a gratis, no, anch'io devo prendere perché non ho niente, non ho nessun pack. Lo trovavo nell'equipment del background, vero? Sì. No, non c'è. Cioè, non hai neanche un Explorer's Pack o roba del genere, strano. Col barbaro sì. Col barbaro ce l'hai, secondo me. Dai, sicuramente nel equipment di classe. Cioè, o Explorer o Dungeon ero, ma comunque le razioni di cibo ci sono in tutti e due. Ma magari le razioni di cibo era messo qua nella lista degli oggetti? Può darsi, non lo so. Ok, sì, non l'avevo segnato. Ho un Explorer Pack e 4 Javelins. Regeneration? No. Come lo chiamano qua le razioni di cibo? Food ratio. Create food, purify food, environment food. Non ci sono gli item, le razioni di cibo. Perfetto, ok, le razioni di cibo. Bene, adesso ci sarebbe la botola da scendere o eventualmente... Non prendo niente io. O eventualmente andare a farsi pagare. Oppure chiediamogli se anche la botola è compresa nel lavoro, più che altro. o vogliamo scendere lo stesso, e chi se ne frega? Io mi avvicino per sentire se c'è rumore solo. Se non c'è rumore, no. Metterlo per andare fammi su. Un tiro di percezione. Sì. Senti tossire e poi ti rendi conto che sei stato te da tossire. Mi spavento un attimo e dico sì, sono io. Beh, io se mi aspettate un attimo vado a chiedere se il piano inferiore è compreso nelle richieste, cioè se ha anche avuto problemi di sotto. Vado su dall'oste. Okay, gli chiedo, oste, la cantina è libera, ma c'è un piano ancora inferiore. Cosa dobbiamo farci? Cosa vuoi che ci facciamo? Ma la dici la botola? Sì. Quella botola è chiusa, bloccata, non sono riuscito ad aprirla, non so che ci sia di sotto. Allora a questo punto proviamo. Fatti dare i soldi, fatti dare i soldi. Intanto vorremmo il pagamento, ratti non ce ne sono più. Si affaccia giù, vede che non ci sono mucchi di ratti di prima, vede parecchi ratti morti in giro e ti dà quel sacchetto con le monete. C'erano 20 monete. Controlla. Scendo. Beh ragazzi, divido le monete in 5 monete a testa. Qui abbiamo il nostro pagamento. La botola, dice l'oste, che è bloccata da che si ricordi, quindi proviamo a sbloccarla. Tutto ciò che troviamo all'interno di quella botola è nostro, quindi possiamo provare a vedere che cosa c'è. Vado. Beh, ci avviciniamo alla botola e beh, te con la porta sei stato particolarmente bravo. Però andata nella botola ci vado di... So, fai leva con... Ah no, te c'è il martello. Lo spacco, cioè l'apro al contrario. Cosa vuol dire l'apro al contrario? Cioè, nel caso, tipo un anello per alzarla, roba del genere? No, c'è un anello lì arrugginito, se vuoi provare ad alzarla lì. Fila il manico del martello, fai leva. Ma è comunque una botola di legno. Se il legno lo tengono. Ah, ecco. Cioè, è legno con delle bande di ferro. Così non si rompe mai più. Proviamo a tirarla su in due. Facciamo così. Okay. Allora, mi metto... cosa vuoi, Athletics? Uno sta aiutando e l'altro tira, fondamentalmente. Fatemi tutti e due un tiro di Athletics. E chi è che sta tirando? Io lo sto aiutando. No, Slay to End è sbagliato. Devi scegliere Athletics. Sì. Cliccato male. È venuto giusto adesso. E forzate un po'. Cambiate posizione, prendete per l'anello e riuscite a sollevare la cosa. Sentite proprio un crack di legno che si rompe e vedete che cadono delle assi che la tenevano chiusa da sotto e c'è una scala di oli per scendere. Ok, è completamente buio o vediamo la luce in fondo al tunnel tipo? Non c'è nessuna luce che arriva da sotto. Non c'è nessuna luce che arriva da sotto? No. Cioè, è buio come può essere sotto uno scantinato, ecco, non è... Buttiamo sotto una fiaccola... Tu, Gabriele, hai qualche... Ma comunque ci vediamo, quindi, noi che abbiamo Dark Vision. Non abbiamo problemi di... Se vi affacciate, ci vedete, e al centro di una stanza c'è il ratto più grosso che avete mai visto. Ah, lo vediamo da sopra? Sì. Che guarda verso la botola facendo muovere i baffi. Cioè, questo ratto si era chiuso dentro? C'è un ratto chiuso dentro, sì. Ed è il ratto più grande che abbiamo mai visto. Sì, ma si era chiuso dall'interno, perché era bloccato, nel senso. Direi, ragazzi, di uccidere quel ratto gigante. Se non lui si può arrampicarsi il ratto? Non lo sai. Nessuno che ha esperto di animali che possa capire se i ratti sanno arrampicarsi? Quel ratto probabilmente non l'ha mai visto nessuno, però io provo a capire come sia possibile che sia così cresciuto così tanto. Qua stiamo parlando di un ratto grande come un cane di mezza taglia, come dimensione di ratto. Io provo a capire come sia possibile che sia cresciuto così tanto quel ratto. Con un tiro di nature va bene. Quando fanno tiro di nature? 22 alla fine. Non sai di nessun modo per cui un ratto possa naturalmente diventare di quella dimensione. Ok, quindi vabbè, io non ho percezioni magiche o cose del genere, quindi non saprei nemmeno. Proviamo a scendere comunque a questo punto. Aspetta, chiamalo da distante. Sei l'unico che può farlo. Vediamo se ci insegue su. Se ci insegue su, quando spunta con la testa lo facciamo. Provo a tirargli di più nell'otto. Anche io non c'è nell'otto. Io provo a tirare un 8 di giavellotto. Il giavellotto va e si pianta a terra vicino. Io provo con una balestrata. Vedete che anche questo colpo di balestra gli va vicino, molto vicino, però all'ultimo momento riesce a sforzarsi quanto basta. Anch'io. Vabbè, se abbiamo questa mira qua direi di scendere a... Ok, questo lo prendi, il cavallotto che si pianta e lo dovrebbe piantare a terra. Però a un certo punto il ratto se lo scuote di dosso, si alza su due zampe guardando verso la botola e comincia a crescere fino a diventare grande come una persona, ma ancora con la testa da ratto e le mani con gli artigli da ratto. Quindi è umanoide su due zampe. Che schifo è quella umanoide ratto, quella cosa. Okay. Oh, per fare un tiro sulla cosa magica per lo salto dell'attacco, dipende se vuol dire con un tiro di arcana così generale per vedere se te ne fai qualcosa. Sì, per capire cosa. Fammelo gratis. Fammi un tiro di arcana. Sai che esistono dei licantropi che assumono forme di diversi animali, non solo lupi, tra cui i ratti. E sono particolarmente comuni in certe grosse città, soprattutto nei più grandi. Ok, va bene. Un'angustata. Dobbiamo tirare l'iniziativa o continuiamo a tirare la roba finché si ferma? A questo punto lui sta venendo e sta iniziando a tagliare le scale. Bene, facciamoci un po' in là. Appena spunta con la testa, io trattengo la mia azione per cercare di colpirlo appena spunta con la testa, evitando che, insomma... Posso tirare un edge intanto mentre sale? Sì, puoi tirare un edge. Lo tiri giù lungo la scala, lui si distanzia all'ultimo momento dalla scala e gli passa tra le braccia e colpisce a terra. Bene, io che avevo trattenuto la mia azione cerco di colpirlo con l'ascia verso diciamo la parte pettorale e faccio questo tiro qua e lo manco. Lui appena sale e fa la spada e è subito pronto a bloccare il suo attacco. Voi avete sparato, diciamo che è il suo turno, allora ha due nani vicino che attaccherà, proverà ad attaccare quantomeno. Aspetta, solo che vuoi dare le cose che ha. Ok, prova a colpire te con una spada che l'hai colpito con l'ascia. Con 14 per sotto, 18. Non trovo la tua spada. Ecco qua, e ti fa due danni. Invece riesce a colpirti sulla spalla, sei protetto dall'armatura, ma la senti la botta. e di scatto si gira e prova a mordere Pietro. Ma morde il bordo del... Ah, no, tu non c'hai lo scudo adesso, giusto? No, non c'ha lo scudo lui. Vede sulla schiena. Metti la spalla davanti, ti morde la lama e prova a strattonartela via, ma poi ritorna dritto. Mattia. Vado, cioè, tiro fuori il martello. Deve tirarlo fuori perché voglio già averlo otto. Posso già attaccare? Sì, passo per il... Ok. Allora rifaccio il passo che ho fatto un passo indietro per farlo passare, rifaccio il passo avanti e l'attacco. Vai. E via. Boom. Boom, colpito. Poverino. Meno 11. Mette la spada per bloccarlo, ma il suo colpo è talmente forte che riesci comunque a spostargli il braccio e colpirlo su un fianco. Brasator. Come di nome? Sì, è il primo turno vostro, era un po'... Ah, già è vero, io avevo trattenuto l'azione. Riprovo a colpirlo, stavolta vedendo che ha estratto la spada, cerco un colpo più, diciamo, dall'alto verso il basso, con la mia magnifica ascia. Mentre recupera dall'attacco che ha subito la Mattia, riesce di nuovo all'ultimo momento a mettere la sua spada per deviare il tuo colpo d'ascia di lato. C'ha pure culo questo. Pietro. Con la tua spada sbavata da suo lato. Pietro? Io vado di... Ah, ok. Sguembro su... Sguembro. E dalla spalla al ginocchio. Mentre finisce di parare l'attacco di Brasator, riesce, spostandosi verso di lui, a andare fuori portato dalla tua spada per un attimo e sta lamentandosi del fatto che avete ucciso i suoi amici. Ma parla in una lingua che capiamo? Malissimo. Dice tipo amici morti, uccisi. E anche tu, tra l'altro. Ok, tocca a me. Provo a dargli una bastonata, vediamo cosa otteniamo con una bastonata. Mentre si è spostato per stivare la spadata di dietro, ha stivato anche con bastonata. Siete partiti assieme e lui con un unico movimento è riuscito a spostarsi un po' più in là da entrambi. Ora tocca a lui. Con questa spada prova ad attaccare prima Mattia con un 20 che ti colpisce, 20 totale, 22 totale, e ti colpisce con la sua spada che però non fa danni, ma che ti fa 3 danni. Ok. Tangenti. E poi prova sempre con la spada ad attaccare Pietro, ma questa volta, anche questa volta tu blocchi con la tua spada, come prima hai bloccato il suo morso, stavolta blocchi il suo pendente, se si chiama pendente. Mattia. Attacco, rispondo. No. Preso dalla furia di essere stato colpito, vai con una martellata proprio dall'alto verso il basso, con l'ignoranza che ti chiedono prima di usare contro i ratti, colpisci il bordo del biglietto alla botola di fianco a lui. No. Ok. Come? Io cerco stavolta di muovere la mia ascia dal basso verso l'alto per colpirlo e aprirgli essenzialmente lo stomaco a questo essere immondo, che fa anche un po' schifo, ma fallisco. Ti ignora proprio, va proprio largo il tuo tasso. Provi a fare questo movimento che non è naturale per te e vai proprio largo da un'altra parte. Pietro. Io lo colpisco nel costato. Sì, lo colpisci assolutamente. La tua spadata stavolta è lunga abbastanza. Lui stava schivando l'attacco di Brasator, quindi non lo vede neanche arrivare il tuo, e riesce a tagliargli di fianco alle costole. Ok, basta. E è ancora vivo. Non è che i licantropi si rigenerano? Non state vedendo che le sue ferite si stiano chiudendo, ecco. Il campo per rigenerarsi, provo a dargli un Eldritch Blast, vediamo cosa succede. Lo può dare. Tiri con svantaggio perché siete vicini. Ah, con svantaggio, dove devo mettere? Quindi l'altro. Quindi tu glielo lo stai tirando, ma lui si sta ancora muovendo per il fatto di essere stato ferito a un fianco. E tuo colpo di mano, mi bruci qualche pelo, ma non abbastanza da ferirlo. E tocca a lui. Per qualche motivo non mi fa più vedere i vostri capelli. Okay. Lui prova ad attaccare Pietro, stavolta con la sua spada, che ti dovrebbe colpire con un 21. Uno. Sai, gliela blocchi di nuovo, in realtà, l'attacco di spada, ma quasi in ritardo, per cui riesce a graffiarti sulla faccia e subisci un danno, appunto. E dopodiché prova a mordere Gabriel. Ma morde il tuo bastone, invece che te. Non è male. Buonanotte. Ok, e adesso tocca a Mattia. Io frustrato come non mai provo a dargli una botta dall'alto verso il basso, proprio tipo come il martello del Joster. Vai. E diamo, riprendo il pupazzo. Prendi il pupazzo. Vedi che lui così non ce l'aveva più. Questa martellata non lo prenderesti se non fosse il fatto che ha una coda, o meglio aveva una coda, perché la tua martellata gliela spiaccica per terra e il pezzo si stacca. Ah. E lui okay. Il dolore. Ah. Non è che come Goku che è stato normale, no, vero? Bravato. Distruggiamo la luna. Io vedo che lui ha colpito la coda del ratto, quindi mi aspetto che il ratto sia più o meno girato in maniera svantaggiosa rispetto a me. Cerco di colpirlo alla schiena. Ok. A metà schiena proprio. Vai. In quel momento era proprio girato, urlando verso il cielo. Per il fatto della sua coda, e tu gli pianti proprio lascia dritto per dritto di fianco alla spina dorsale, e lui rimane lì bloccato sulla tua ascia, e da dietro vedi la sua testa che si china davanti e poi si molla, e senti che ti pesa sull'ascia, lo stai tenuto in piedi. E io allora, puntando il piede, tiro e estraggo l'ascia dalla sua cosa e lascio cadere il ratto dove cade. Si accascia e cade pure giù nella vuota. Morto. Pronto? Ah, ok. Si fa scendere? Sì. Chi scende? Beh, scendiamo. Chi si scende? Non ho una mappa disegnata per la casa sotto. Fondamentalmente è fatta la caverna, è più piccola che la stanza della cartina e non ha pareti di legno, probabilmente è terra, anche le pareti è, vedete che è stata scavata un po' in roccia, un po' in terra, comunque non rifinita come cosa. Ci sono dei resti dei barili come quelli di sopra, ma rotti in mille pezzi, con degli avanzi di cibo e altra sporcizia sparsa per terra. E non vedete schifo, schifo, porcheria, avanzi di cibo, un angolo con dall'odore potete solo immaginare, cose di questo tipo. Quindi non riusciamo a trovare proprio nulla di utile qua dentro. Io posso provare un tiro di... Ma che cazzo, per esplorare, di investigation. Puoi provare a fugare nella sporcizia. Vediamo un po' cosa trovo nella sporcizia. Frughi, ti sporchi oltre i gomiti, ma te, essendo alchimista, alla fine i cattivi odori sei diventato abbastanza immune. Sì, poi sono anche un nano, quindi... Riesci alla fine a trovare, in mezzo alla sporcizia, 40 monete d'argento e 2 monete d'oro. Bene. Erano buttate lì come se non avessero davvero nessun valore per la creatura che abita qua. Per me ce l'ho. No, non mi fido. Allora, c'è altro da sotto? Mentre siete lì, cercate. Ah, ok. Vedete che dalla parete, lì è roccia solida, arriva camminando la stessa persona con la maschera di prima, vi guarda un attimo e dice: non avevo molti licantropi. Indica il ratto, il ratto che è, e questo viene risucchiato nel terreno. Lui si gira e riattraversa la parete. Quindi prende anche il licantropo. Quindi bisogna stare attenti a cosa uccidiamo. Quella creatura c'entrava con questo anche. Ma cosa ha detto? Non aveva tanti soldi, nel senso che ne ha trovato uno nuovo da aggiungere. Come l'ha interpretato io, sembrava che ringraziava chi abbiamo ucciso il licantropo, così ne prendeva uno. Sì, però non va bene che ogni morto in questa città infatti diventi il suo schiavo. Dobbiamo assolutamente andarne a parlare con qualcuno. Sì. Non so se possiamo fidarci del tutto dell'autorità, però magari come rappresentante del clan Silverstone posso provare a interagire e intercedere e far loro chiudere un occhio sul nostro alleato mezzelfo. Oppure evitiamo di dirglielo. Contro i mezzelfi non è che c'è una legge o qualcosa del genere, non è che è illegale essere mezzelfo, solo che sì, vengono genere disprezzati. Dunque, cosa vuol dire? Come la reazione del capo del villaggio con il capo del servizio. Quindi, dunque, noi potremmo decidere di dedicare a questa ricerca di questi non morti qualche giorno. Abbiamo comunque tempo, le erbe non scappano, le stagioni sono lunghe, quindi non sarebbe un grosso problema fermarci e risolvere questo problema. Questo problema potrebbe anche esplodere e coinvolgere più di questa semplice città di pescatori, quindi è meglio risolverlo. Non vorrei che scappasse di mano questa cosa e non voglio che venga sottovalutata dalle autorità. Quindi probabilmente avrei prima bisogno di un bagno, ma andrei a cercare di parlare con il sindaco o con chiunque comandi qui. Forse ci potrebbe venire utile anche un'eventuale organizzazione di pescatori o addirittura pirati, questa situazione. È contro il loro interesse questo tipo di magia nera. Va bene, dai, torniamo su. Ok, facciamoci curare. Teatro, no? Che. Beh, ci aveva già pagato prima, in realtà. Sì, ma saliamo dal. Sì, ma cercavo di dire che dovevamo togliere i piedi anche un licantropo. Oste, sotto sembra che quei ratti fossero sotto il potere di un licantropo. Di una specie di. Ratto mannaro. Sì, esattamente. Mannaro? Sì. All'interno della botola c'era questo ratto umanoide, un umanoide con una faccia di ratto. Fatelo vedere. L'abbiamo ucciso, ma è arrivato quello stesso individuo che ha fatto scomparire i cadaveri da qua. Io non ho mai sentito di licantropi in queste zone. E invece credo che siano abbastanza comuni quel tipo di licantropi in una città portuale come questa. La butto lì. Tiro Deception, va. Deception. Ah sì, ne avete già sentito voi? Io? Nello specifico, però è possibile che in un villaggio di pescatori possano trovarsi piuttosto bene quel tipo di creature. Quindi non sono completamente sorpreso. Quello che mi preoccupa è che quella specie di necromante abbia portato via anche quell'essere e dobbiamo cercare aiuto prima che questa cosa sfugga di mano e diventi incontrollabile. Va bene, io cosa ci posso fare? Sono tanto qua per l'osso di questa taverna. Dovete parlare con il sindaco, magari voi riuscite a convincerla che è un problema. C'è un'organizzazione di pescatori o qualcosa del genere in questa zona, oltre al sindaco, in questo quartiere? No, c'è una roba tipo una gilda, no, ognuno è indipendente, chi ha una barca assume man mano, quasi giorno in giorno, le persone che gli servono. E poi ognuno la porta sul mercato. Bene, allora dovremmo andare dal sindaco a questo punto. Conosce un posto vicino e economico per... Cosa avevamo recuperato? Scusami? Io ho trovato qualche moneta in mezzo alla merda. No, intendo, ma la coda è rimasta? Sì, il pezzo di coda che avevate staccato lì. Potevamo portarglielo come prova che avevamo ucciso il canto che era rimasto sulla coda. Potete, certo. E quando potremmo... se prendiamo la coda del canto, lo possiamo mostrare come prova che esistono il canto qui, almeno ratti da questa zona. Sì. Io vorrei portarci. Sì, questo ci servirà più che altro col sindaco più che con l'oste. Ok, quindi l'oste la guarda. E per lui è la coda di un ratto enorme e dice grazie che l'avete ucciso, cioè io non sapevo neanche che ci fossero creature di quel tipo. Anche il boscello è scucito blone tutto spilorcio figlio da vari. Le qualità poetiche del mezzelfo mi sorprendono, sono sorpreso. Fai un giro di persuasione per favore, Gabriel. Aspetta, persuasion, è purtroppo una persuasion quello che è. Dai. Grazie per avermi risolto anche questo problema. Apre un cassetto sotto il balcone dove vedete che ha delle monete e prende ancora 5 monete d'oro. Oh, che bello. A testa o... Almeno fa in modo che siano divisibili per 4. Ma ne ho 8. Tieni le due te che hai sfoderato la poesia, dai. Sì, infatti mi sono ma fammelo divisibile per 4. 83. e tenete lì una. Ok, bene. Dicevo, c'è un posto in cui potersi lavare e eventualmente organizzare per andare dal sindaco assieme? Io non ho stanze qua. Potete provare alla taverna che c'è nella zona nord. Ah, in mezzo ai ricchi, che sarà come minimo gestito da io. Non c'è una taverna qua nella zona portuale, giusto per... E non hai nessun tipo di stanza, non c'è possibilità di... La gente che qua, a parte che questo è un villaggio da quello che ho capito, quindi c'è 5 minuti a piedi la zona nord. Sì, c'è una fontana da quelle parti. Sì. Nella zona nord c'è una fontana. Nella zona nord. Qua è un villaggio di catapecchie abitate da pescatori, non sanno quasi una fontana. Andiamo verso dove c'è indicato. La zona nord, vedete subito lo stacco tra c'è una strada che separa proprio la zona delle catapecchie dei pescatori dalla zona nord. La zona nord che non è necessariamente ricca, ma vedete che è costruita in maniera più ordinata, con la regolarità di un campo militare, cioè proprio è ricostruita sopra l'accampamento militare dell'armata elettrica di quando hanno inizialmente occupato questa zona. E l'edificio più importante chiaramente è nella zona centrale, e intuite che dove possa esserci il sindaco. Un po' più ad est c'è una cappella, una piccola chiesa, di un po' tutte le divinità delle religioni principali degli elfi, e lì vicino c'è la taverna che vi ha indicato Edric. Ok, di che ore sono più o meno? Che orario è? Siete nel primo pomeriggio più o meno, diciamo le tre. Okay. Io vado verso la fontana per sciacquarmi, più che altro per togliermi un po' di schifezza di dosso. Sì, quando arrivate lì vedete che c'è comunque gente, ci sono un paio di elfi per la strada, ma non ne vedete molti, sono più che altro umani vestiti in maniera semplice, sono puliti, che prendono acqua alla fontana in delle finestre, tipo dei secchi per portarsela. Beh, io mi do, cioè, mi do una sciacquata. Non è una fontana a livello di quelle architettoniche di decorazione, è funzionale. Sì. Vabbè, comunque mi sciacquo e sono a posto. Beh, andiamo a cercare un appuntamento al sindaco. Nella dolce vita. Volete andare verso il sindaco? A sto punto non so dove è il sindaco. Andiamo verso il sindaco, poi direi sì, dell'edificio centrale. Ci sono due guardie all'ingresso, un umano e un elfo. L'elfo subito addocchia il mezzo elfo, ma non, vedete che non vuole fare una scenata, fondamentalmente. E l'umano vi ferma e vi chiede che cosa volete. Il mio nome è Bersator Firesmith del clan Firestone, del clan Silverstone. Noi siamo qui per parlare del sindaco di un problema che abbiamo notato nella zona portuale. Sembra che ci sia un necromante in grado di risvegliare i morti, e c'è la possibilità che stia pian piano creandosi un esercito di non morti. Abbiamo anche trovato un ratto mannaro, un licantropo, un topo licantropo. Ok, la guardia umana ti guarda un attimo e dice: va bene, mando il mio collega a vedere se il sindaco lì, il suo collega, lei poi entra e gli dice: topo mannaro? Sì, mi giro verso come si chiama Gabriele? Mi giro verso Gabriele, che aveva la coda. Hai ancora quel pezzo di coda che... Ottima scelta lasciarla a me, così mi notano quando lo devo tirare fuori da coda. Abbiamo stabilita coda. Tanto l'elfo è entrato, quindi qua c'è solo l'umano. La guarda, magari, cioè, effettivamente non è niente. Un ratto che forse era una creatura. Era una creatura umanoide. Nel senso, si reggeva sui due piedi e aveva una spada. Posso cercare di convincerlo che era molto molto pericoloso, che magari potrebbero essere degli altri, che quindi sarebbe opportuno che la cosa venisse portata rapidamente alla decisione del sindaco? Assolutamente sì. Cos'è, un deception? No, persuasion, alla fine... Se ne sei convinto o meno. Ma secondo me è una balla pericolosa, cioè c'era questo in cantina è morto live, bisogna credere che se ne potrebbero essere gli altri, così okay, mettiamo un po' di ansia e vediamo di riuscire a intascare qualche soldo anche da qui. Vai, deception allora. Proviamo a deceptare allora. Ti guarda sorpreso, cioè proprio spalanca gli occhi alla possibilità, cioè lui non gli era venuto in mente che quella potesse essere la situazione, e ci si spero che non che sia al contrario, come dici, che questo fosse un caso isolato, perché con i problemi che stiamo avendo ultimamente, il drago, i coboldi fuori dalla città, ci mancherebbe soltanto più questa situazione. Sì, c'è una situazione con dei coboldi, ci aspettiamo che siano alleati con col drago, ma forse è meglio che ne parliate col sindaco e col mio capo. Noi al momento non sappiamo nulla di coboldi, però arriva nel frattempo ritorna la guardia elfa che ci interrompe rudemente, fondamentalmente, e gli dice: potete entrare, ma lasciate le vostre armi qui all'ingresso. Il sindaco è pronto a riceverli. Va bene, insomma, di perché andiamo a casa del sindaco. Un drone, diciamo, un foyer d'ingresso. Vi indica un balcone dove c'è un'altra guardia e vi dice di lasciare le vostre armi. Vabbè, io lascio le mie armi, anche le asce da lancio, le poggio per terra. E io il bastone mi serve per camminare. Ok, fammi una deception. Cazzo di Gandalf. Che tra l'altro è tipo giovane, nel senso... Che tra l'altro in realtà non se ne fa un cazzo. Con il vantaggio perché sei un mezzelfo che prova a raccontare palle a me. E 12. Fammi vedere se ti prego. Ti guardo e dico: va bene, ma avremo un occhio particolare. Come se non facessi già. Poso il maul con prepotenza e violenza. Ok. La guardia al bancone lì, alla scrivania di un umano che ti guarda un attimo, manda la tua mano alla spada, però non resiste, ecco. Cos'è anche i giovelotti. Sì. Ti conducono, dopo un breve corridoio, all'ufficio del sindaco. Questa elfa, dall'aria nobile, che in piedi dietro la scrivania, che guarda verso fuori da una finestra, seduto lì, anche un umano vestito in una cotta di maglia con un arco appoggiato di fianco, cioè ha una faretra appesa alla spalla, l'arco ce l'ha in mano ma non in maniera aggressiva, cioè è come se non lo vuole proprio solo mettere per terra. Vi sorride quando l'umano vi sorride quando entrate e poco dopo si gira il sindaco che si presenta, Anissa Elsinor, che è il sindaco di Gential, e mi dice: le mie guardie mi hanno detto che c'è un emissario di un clan di nani qui per parlarmi. Sì, in realtà il mio scopo in questa città, io sarei stato solo di passaggio, sinceramente non sono venuto apposta per parlare con lei, però abbiamo notato un problema nella zona portuale e mi sembrava giusto porlo alla sua attenzione. C'è un qualcosa di molto simile a un necromante, credo, che sta facendo sparire cadaveri a seguito di risse o incidenti. Io temo che possa sfuggire di mano questa situazione, che possa pian piano costruirsi un esercito di non morti. Non siete i primi che vengono a parlarci di questo problema. Purtroppo non ci possiamo fare niente, cioè, non abbiamo neanche gli uomini per investigare. Abbiamo questo problema con col drago a ovest che ha tirato su una tribù di coboldi e stanno creando un sacco di problemi per il commercio della zona, stanno attaccando le navi, stanno attaccando le caravane che sono dalla città, dal villaggio, e abbiamo le mani piene con questa situazione. È strano, perché la scorsa settimana la carovana che abbiamo mandato da Silverstone non ha avuto problemi. È arrivata da est, il problema è che abbiamo due strade da ovest. Eppure, cioè, il villaggio è abbastanza piccolo da essere... Vabbè, non importa. Questa situazione del necromante la sappiamo. Sappiamo che arriva... Come si chiama il sindaco? Anicelso. Sappiamo che arriva soltanto, e non sempre, in caso di morti violente. Perché altri cittadini sono morti per cause naturali o per malattia, e non si è presentato nessuno a cercare di prendere i corpi, quindi non vi so dire più. Jonah, qui, se siete interessati, c'è una taglia di 500 monete d'oro se riuscite ad occuparvi di questo drago, e Jonah ve ne può dire di più. L'umano sorride verso di lei, poi si gira verso di voi, l'umano che era seduto lì, e dice: sì, abbiamo ricevuto diversi rapporti lungo la costa, appunto, di un drago rosso che stava creando problemi al commercio e ai pescherecci. Non state ad ascoltare quello che vi dicono i pescatori, è poco più di un puccio, però noi non abbiamo ancora avuto modo di andare a cercare la sotana e di organizzare un gruppo di guerrieri per sanarlo. Sappiamo che c'è una tribù, un campo di coboldi ad ovest che molto probabilmente lavorano per il drago, perché sono arrivati qui in zona quando i problemi con il drago sono cominciati. C'è Frate Cecil al tempio che vi può raccontare, che mi parlava solo stamattina di una leggenda del posto che potrebbe aiutarci nel risolvere il problema col drago. Se siete interessati, leggenda del posto, problema con il drago e non morti di qua e di là. Beh, non abbiamo... c'è un altro problema, però, sempre legato a questi non morti. Ci sono delle creature ratti mannari. Ci sono dei grossi ratti umanoidi. Non so, cos'è un ratto mannaro. Non ho mai incontrati qui. Noi ne abbiamo incontrato uno e potrebbe non essere l'unico, ma il problema più grave è che sempre lo stesso necromante è entrato in possesso del cadavere magicamente e potrebbe farci su un generale del suo esercito, e potenzialmente è devastante quell'essere se dotato dei poteri di cui è in grado il necromante dargli. Ok, non so cosa rispondere a questo, cioè la situazione di ratti mannari è una novità per me qua dentro. Ne ho sentito, non ho mai avuto a che fare personalmente. Passiamo alla coda? Sì, possiamo mostrare la guarda e dice: ok. Metterò alcuni dei miei uomini a investigare e a controllare nella zona del porto. È la prima volta che sento, appunto, di ratti mannari qui a Jekyll. Però c'è sempre la prima volta che queste creature possono comandare degli sciami di ratti normali e dan problemi. Sì, immagino. Sinceramente penso che sia più probabilmente un caso isolato, del tipo qualcuno ha contratto la maledizione della licantropia in un viaggio con una nave mercantile e sbarcato qui e credeva morto, mannaggia. Investigherò, manderò il volo a investigare nella zona per verificare che la situazione non sia più grave di quello che medico di Olita, questa porca miseria. Qualcuno l'ha chiuso in cantina quel ratto, cioè qualcuno sapeva del ratto. Sì, infatti, il ratto, la tana del ratto era chiusa dall'interno, quindi qualcuno sicuramente ha manovrato quel ratto in modo da causare problemi nella zona portuale. Problemi che fortunatamente sono rimasti circoscritti alla taverna, quindi diciamo recenti, recentemente sì, è stato chiuso là dentro. Potrebbe averlo chiuso il ratto stesso. Ma il ratto deve esserci entrato in quella botola, quindi deve essere passato dalla taverna, e a meno che non fosse il taverniere stesso che... Sì, infatti il ratto doveva essere una persona prima di entrare lì dentro. Non è una creatura come un normale licantropo che si trasforma in umano. Era un ratto originariamente, non era un umano. Fatevi un tiro di arcana. Diciamo Rosator e Javier. 19. Sapete che è una cosa normale per licantropi avere una forma umana, una forma animale e una forma ibrida. Quindi questo che avete visto come ratto sì, e come però, forma ibrida è probabilmente una forma umana. Il fatto che sia passato inosservato andare in cantina, cioè è possibile che fosse un dipendente della taverna? È la taverna quella del porto, no, Etric non ha mai avuto nessuno che lavora per lui, il posto è così piccolo. Allora, o è entrato nella taverna quando era chiusa, oppure è arrivato da un'altra parte. O è entrato senza che Edric se ne accorgesse. Non so se avete provato a guardare negli occhi. Cioè, quelle codici che ha dietro il bancone più spesso sono frutto personale che altro. Va bene, Non so che altro dire. Ha del lavoro per noi? Beh, c'è questa cosa del drago. Sì, la situazione del drago. La taglia di 500 monete d'oro. Ok, ma 500 monete d'oro di taglia per far cosa? Per uccidere un drago? Sì, come vi ho detto, è poco più che un cucciolo. Non so come si chiami un cucciolo di drago. Ma questo è piccolo come drago. Ora, io non ho mai avuto a che fare con draghi più grandi. Però c'è un drago. Ho studiato a sufficienza da sapere che un drago vero è tutta un'altra storia. C'è un drago e una tribù di coboldi. Sì, supponiamo. Che il lavoro per il drago. Ecco appunto. Quindi 500 monete d'oro per tutto questo mi sembra un po' poco, però supponiamo invece che siano quelle 500 monete d'oro e ad esempio un trattato per non far pagare le tasse al clan Silverson per l'acquisto di pesce da questa città, per esempio. Quindi fino adesso stava parlando l'umano lì sindaco scuotendo la testa mentre lo stai dicendo e guardandosi non convinta fondamentalmente. Può essere anche un trattato limitato nel tempo. Il drago quanti danni vi sta causando? Il drago sicuramente più di 500 monete d'oro nell'ultima settimana. No, beh, la pesca. Non è solo la pesca. Lei ha detto che ha iniziato ad attaccare dei mercantili. Per adesso non ci risulta che ne sia riuscito ad affondare o saccheggiare, ma sta diventando una minaccia. Più che altro l'interruzione alla via commerciale di terra stanno creando dei problemi altri villaggi della zona. La taglia è di 500 monete, dovete anche capire che questo è un piccolo villaggio, io ho un po' le mani legate, provvedimenti che posso prendere. L'impero non mi lascia completamente carta bianca. Dai, ci penseremo. Non voglio spuntare niente per vedere. Detto così sottovoce, detto sottovoce al nano, non riusciamo a spuntare niente per il Medelfo. Come un pass, diciamo una cosa, diciamo. Che pass? Non lo so, non vorrei che ci facesse la storia se poi dovessimo andare da qualche parte. Se ci dà un incarico, una lettera di incarico, così fanno stare tranquilli. Infatti. Ok, supponiamo che non si possa far nulla per i dazi che non sono, diciamo, di vostra pertinenza locale. Avremo però bisogno innanzitutto di un posto in cui alloggiare qui, in questa città, se dovessimo aiutarvi a risolvere questo problema del drago, e una specie di lascia passare e immunità per il nostro amico Mezzelfo che viaggia con noi. Il sindaco lo guarda disgustato, a dir poco disgustato, però mi dice: lui non sta facendo niente di illegale, ma semplicemente questo. Se la sua presenza dà fastidio a qualcuno, io non ci posso fare niente. Riguardo una stanza, se voi decidete di prendere questo lavoro, io posso anticiparvi qualcosa e vi pagate una camera nella taverna qui in città. Niente. Voi altri? Pietro? Ah no, Pietro non c'è. Pietro, ci senti? Sì, va bene. Ok, si parla della stanza, intanto dobbiamo esaminare la cosa. Ok, vi dà 50 monete d'oro per pagarvi il tuo alloggio qui. Ci sta? Quanti giorni d'oro basterebbero? Vabbè, sì, ci vuole tanto. Parecchi. Mentre io ne do, sono confuso dal numero di Pietro. No, ci dà lei 50 monete d'oro come anticipo per okay. E mentre sto sentendo l'umano che era lì si alza, vi ringrazia per esservi messi a disposizione fondamentalmente della città. Una sola cosa, sindaco, tenete d'occhio la situazione al porto, perché dovesse degenerare sarebbe più problematica di un giovane drago. Faremo possibile. E l'umano vi segue fuori, presenta il suo nome, è Jonah Saints, e gli dice: guardate, quando siete pronti passate di qua. Dite alle guardie che dovete parlare con me, lascerò adesso di farvi passare, perché appunto alcuni dei miei scout hanno visto dove uno dei campi dei kobolli che potrebbe interessarvi. Ma prima andate a parlare con tuo padre Cecil alla chiesa, perché appunto se ha delle informazioni che possono aiutarvi, non vedo perché no. Comunque, per quanto piccolo, questo può sempre un drago. Ok, d'accordo. Bene, nel frattempo andremo a sistemare le nostre cose in taverna, direi, e poi vediamo un po' cosa fare dopo esserci sistemati. Okay. Andiamo verso la taverna. Ok, andate verso la taverna, vi presentate all'ingresso, c'è... Che sto scrivendo? Io volevo proporre, facciamo pausa qua perché è già mezzanotte. Sì, infatti. Infatti, arrivate alla taverna. Facciamo tutti tappa alla taverna e ci fermiamo là. Una ragazza al balcone vi dà le vostre stanze. E facevo qua per oggi. Ok. Ok. Okay, va bene. Reso conto chi lo fa? Ma io mi sono segnato delle cose, ma non tutto. Se vuoi io mi stop su questo. Butta giù un po' di robe al volo proprio.